il direttore generale Rai, è una decisione preoccupante, è un pessimo segnale d'inizio della nuova dirigenza. Quanto ai limiti del buon gusto che Vauro avrebbe travalicato, c'è da chiedersi, il buon gusto è questione soggettiva, ma c'è da chiedersi se per esempio non abbia valicato i confini del buon gusto anche il modo in cui una testata Rai nei giorni scorsi aveva dato con enfasi notizie dei risultati d'ascolto delle dirette sul terremoto. Quanto poi alla pretesa che ci debba essere una riparazione, una puntata risarcitoria, questa è una cosa che nell'informazione non esiste. L'informazione può essere corretta o scorretta, e l'informazione che nella puntata scorsa Michele Santoro e i suoi avevano fornito sulle vicende del terremoto è stata un'informazione corretta, perché dava conto di parecchi punti di vista, peraltro sottolineando più di una volta il lavoro prezioso svolto dalla Protezione Civile. Ma non si può tollerare che ormai diano fastidio le domande sull'operato del governo o di strutture connesse all'azione del governo. Questo è il punto vero sul quale il direttore generale Masi si è mosso. Spero che il presidente della Rai, Garimberti, voglia dare un segnale e distinguersi. Lui all'inizio ha detto, all'atto del suo insediamento, sarò il garante del pluralismo dell'informazione Rai. Credo che questo sia un primo importante banco di prova.